sembra molto poco logica, molto poco razionale rispetto alla strategia di acquisizioni più volte annunciata, spiegata e ribadita da François-Henri Pinault. Lui ha sempre detto siamo alla ricerca di aziende piccole o medie, molto forti nel loro segmento di mercato, con delle potenzialità di crescita molto rapide. Il caso classico è l'ultima acquisizione che ha fatto Pinault un mese fa con la californiana Volcom, $600 milioni, un'azienda relativamente piccola ma molto forte nella sua fascia di mercato, quella del surf, dello snowboard, dello skateboard, con delle forti potenzialità di sviluppo. Ha sempre escluso grandi acquisizioni, quindi sicuramente non Prada, ma direi neppure Hugo Boss, neppure Burberry, neppure Ralph Lauren, neppure Armani, peraltro appunto la Tribune fa un lungo elenco, come dire, tutto e niente, e ha sempre escluso anche aziende che siano concorrenziali e non complementari rispetto alle attività che già controlla PPR. Nel caso specifico Prada è un'azienda in diretta concorrenza con Gucci, e quindi francamente sembra veramente una voce, niente più che una voce raccolta in un corridoio. Mi sembra invece che l'ipotesi, per dire, come lato di cui si è parlato settimane scorse, per esempio, è un'ipotesi molto più logica per un gruppo come PPR. Peraltro Pinault ha sempre detto che la fascia, il segmento di mercato in cui loro devono rafforzarsi è quello dell'orologeria, della gioielleria, dove loro sono presenti con Boucheron nella fascia molto alta di mercato, e sicuramente gli manca qualcosa nella fascia un pochino sotto. Dalla moda al capitolo alimentari. Cetrioli, germogli di soia, si cerca di individuare con esattezza il presunto responsabile dell'epidemia di Escherichia coli, che sta seminando il panico in Europa. Nel frattempo Bruxelles ha stabilito per gli agricoltori danneggiati dal calo dei consumi un risarcimento di €150 milioni, che però è stato giudicato ridicolo dai diretti interessati. Solo in Italia, secondo la Coldiretti, la psicosi collettiva avrebbe provocato perdite per €100 milioni. Ricordiamo che la scorsa settimana la Russia aveva temporaneamente vietato le importazioni di verdure fresche provenienti da tutti i paesi dell'Unione Europea a seguito dell'epidemia del batterio. Un allarmismo ingiustificato, secondo la Coldiretti, che ha quantificato le ripercussioni di questo blocco. Sentiamo Rolando Manfredini, responsabile sicurezza alimentare di Coldiretti. Costa molto. Se noi pensiamo che effettivamente la Russia è un mercato che per noi è abbastanza importante, in riguardo alla Russia costa circa €4,4 milioni, questo è grosso modo il valore che noi esportiamo in Russia, però complessivamente costa molto di più perché in una settimana abbiamo perso circa €20 milioni. Si è scagionato la questione primaria, perché effettivamente anche noi avevamo dei dubbi grossi sul fatto che fosse responsabilità della Spagna e quindi degli agricoltori spagnoli in un qualche modo che potevano aver contaminato con anche magari dei concimi. Questo non è vero ed è stato anche proprio in seguito a un ragionamento, perché effettivamente purtroppo tutti i morti ci sono stati in Germania e nessuno in Spagna. Tenendo conto che di questo fatto voleva dire che effettivamente dovevano già esserci delle stalle magari inquinate che producevano magari latte, che producevano carne, in Spagna non è successo nulla. Quindi evidentemente il problema va ricondotto all'areale del nord della Germania. Le ipotesi sono le più disparate, quella che più è accreditata è che sia stata usata dell'acqua non consona per lavare le verdure. Prima di chiudere torniamo a parlare di Grecia. Crescono infatti i consensi per una ristrutturazione soft del debito del paese, un rinnovo dei prestiti e dei bond che arrivano a scadenza con il consenso dei creditori, al quale anche la Banca Centrale Europea, finora strenuamente opposta, fa una prima apertura. Per poter incassare a luglio la quinta tranche del prestito da €100 miliardi stanziato un anno fa da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, il premier Papandreou ha dato una forte accelerazione alle privatizzazioni e deciso una dolorosa stretta fra tagli di spesa, licenziamenti di dipendenti pubblici e aumenti delle entrate per €6,4 miliardi nel 2011 e €22 miliardi nel periodo 2012-2015. Ma la tensione è alle stelle. Il commento di Vittorio Darold del Sole 24 Ore al Via Libera al piano di aiuti per il paese. Nelle prossime ore dovremo avere il comunicato proprio degli ispettori della cosiddetta Troica, che consentirà di dare la quinta tranche, la quinta rata di 12 miliardi sui 110 complessivi decisi un anno fa. Questo in cambio di maggiori tagli e maggiore austerità che la Grecia dovrà fare quest'anno nel 2011, pari a 6 miliardi e altri 22 miliardi nel 2015. A tutto questo però va aggiunto quello che è stato deciso a Lussemburgo, alla presenza del primo ministro greco George Papandreou e al primo ministro del Lussemburgo, che è anche presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker. Lì è stato deciso che nel 2012-2013, nonostante gli aiuti da 110 miliardi, la Grecia non avrebbe avuto i soldi per andare sul mercato, cioè i tassi di interesse non erano sufficienti a far sì che la Grecia, come era previsto nel piano originario, potesse accedere l'anno prossimo ai mercati. Quindi verrà dati altri 60 miliardi, 30 nel 2012 e probabilmente altri 30 nel 2013, per far sì che la Grecia possa evitare di andare sul mercato, salvo piccoli interventi spot. Questo consentirà alla Grecia di non andare sul mercato, consentirà di avere anche però una partecipazione delle banche private. Come? Allora si dirà che le banche private, su una moral suasion della Banca Centrale Europea, dovranno fare un rollover, cioè un rinnovo volontario dei debiti, dei bond in scadenza greci. Quindi niente default, niente allarmi e tutto quanto dovrebbe quadrare. È un'operazione ancora che ha qualche dettaglio, come potete immaginare, da verificare, sì. Ma questo è il quadro. Un anno fa, quando il Fondo Monetario, l'Unione Europea e la BCE fecero questo primo piano di salvataggio, avevano previsto che dopo il primo anno la Grecia avrebbe avuto la capacità di andare normalmente sul mercato e fare appunto il rinnovo. Trovare finanziatori per il suo debito. Esattamente, finanziatori per il suo debito. Tutto questo invece, come abbiamo visto, grazie anche forse a causa della speculazione, della ritrovata severità delle agenzie di rating, perché sono state veramente molto più severe ultimamente rispetto ad esempio agli inizi della crisi del 2007-2008. Vi ricorderete tutti che Lehman Brothers fallì e era AAA, quindi in qualche modo insomma le agenzie a quell'epoca non avevano fatto esattamente proprio quello che si aspettava. Oggi invece sono diventate molto attive, addirittura qualcuno dice forse troppo, e quindi tutto questo ha impedito ai nostri amici appunto greci di tornare sul mercato nel 2012, perché pagherebbero un tasso di interesse talmente elevato che li farebbe fallire immediatamente. E anche per questa settimana per Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.